cirifirifici, sorrido perché aspetta che dolcemente tu sul mio cuor nella notte blu con amor ti farai baciare. Tutto si copre d'un bel cirifirifì, ma tu tremi perché bella valle è una festa di lucciole d'amor, sospira il grillo tra i fior. Nina, lasciati dar un bacio al chiaro di luna, ti puoi stringer sul cuore, cicci di bibi, piccola mia gigogì. Nina, soltanto tu, dopo di te nessuna, soltanto tu mi fai sognar e tremare stringendoti a me. Bacio al chiaro di luna, ciripiripi, un peccato non è. Non esitar, solamente tu sei l'amor, cosa vuoi di più dal mio cuor, lasciati baciar. Nina, che vale aspettar, ciripiripi, tanto mamma non c'è. Se da un pezzo si sente russare anche papà, lume la luna ci fa. Nina, lasciati dar un bacio al chiaro di luna, ti puoi stringer sul cuore, cicci di bibi, piccola mia gigogì. Nina, soltanto tu, dopo di te nessuna, soltanto tu mi fai sognar e tremare stringendoti a me. Ti dar un bacio al chiaro di luna, ti puoi stringer sul cuore, cicci di bibi, piccola mia gigogì. Nina, soltanto tu, dopo di te nessuna, soltanto tu mi fai sognar e tremare stringendoti a me.